Yeah, no, and oh, oh, oh. Oh, Schade. Schippern ja nicht erkenne. Harene sa sarva samaya. Jana aveshaya. Sarava samaya jana Vishaya Zaho Paho Jana Samaya Tishtale upon

Oh, Yeah. Long and you show.